La vetta coperta di gelo e avvolta in un lucido velo, un soldato allerta sta, buona guardia non se fa. Le nuvole in cielo pian piano van verso il suo amore lontano, egli sogna la sua casa all'orma, poi si conforta nel suo. Tutto passa e si scorda, tutto deve finire, le nubi del cielo dovranno sparire. Tutto passa e si scorda, ma sa anche l'amor, vedere sincero non passa dal cuore. Ha scritto Maria che l'attende e lui fiducioso risponde, non temere amor perché presto tornerò da te. Se ancor duri giorni verranno, ben presto anche loro passeranno, c'è nel cuor d'ognuno un ritornel che sempre mi vede fedel. Tutto passa e ti scorda, deve finire, le nubi del cielo dovranno sparire, tutto passa e si scorda, ma sai che l'amor, vedere sincero, non passa dal cuore. Infante già immagina il giorno del suo vittorioso ritorno, ritornare al casolar, i suoi cari ad abbracciare. Sarà un giorno pieno di allegria, vicino alla dolce Maria, mentre mille baci le darà, la vecchia canzon canterà. Tutto passa e si scorda, tutto deve finire, le nubi del cielo dovranno sparire, tutto passa e si scorda, ma sai che l'amor, fedele e sincero, non può.